Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria in tempi di coronavirus. Parleremo dell'ipotesi di snellire quasi un eufemismo, comunque di rendere più veloce la tempistica sugli appalti, soprattutto delle opere più urgenti, da quello che si capisce nel decreto semplificazioni che dovrebbe arrivare a breve al Consiglio dei Ministri. Ci si attende maggior utilizzo dell'autocertificazione e semplificazione delle procedure, responsabilità dei funzionari pubblici delimitate e in modo che non ritardino all'infinito il momento della firma, questo per la paura di essere accusati di danno erariale, ma per quello che riguarda gli appalti anche una riforma mirata che dovrebbe sbloccare per quest'anno circa 70 miliardi di opere, altrettanti per i prossimi anni. Sono 220 miliardi di opere bloccate. Tra l'altro il governo ha stimato, a mio avviso correttamente, che per ogni euro investito in un cantiere se ne generano circa tra i 4 e i 5 euro come indotto, ecco perché continua a ritenere le opere pubbliche prioritarie rispetto anche ad altri interventi che non danno la garanzia che poi i soldi vengano effettivamente spesi. Una prima tranche di 30 miliardi riguarderebbe le ferrovie e l'ANAS, dove ai rispettivi amministratori delegati verrebbero attribuiti i poteri commissariali. Di questo parleremo perché mentre tutti stanno ancora parlando della fase 2, noi vorremmo iniziare a occuparci lentamente della fase 3, cioè la fase in cui, finita l'assistenza dell'emergenza, so che alcuni stanno ricevendo adesso i 600 euro, del mese di aprile, poi parleremo. Ma finita la fase di emergenza bisognerà andare a dare agevolazioni fiscali, interventi, in caso specifico anche di carattere burocratico e quant'altro, ai singoli settori, quelli messi più in difficoltà. E da questo punto di vista faccio notare che c'è uno studio oggi proprio su quali settori di impresa dovrebbero essere più in difficoltà. E lo studio del CERVED sostanzialmente va a analizzare le possibilità di fallimento e nei primi tre posti troviamo le costruzioni con punte del 22%, gli hotel e ristorazione al 19% e 19% anche settore servizi. Rischi più bassi invece per le farmacie, per l'industria alimentare e per il commercio al dettaglio alimentare. Questo lo dico perché, per non sentirmi dire poi ne avete parlato in ritardo, io ritengo che insomma col decreto semplificazione e poi con i decreti successivi bisognerà andare a interventi mirati su almeno questi settori, quindi automotive, che è un altro settore indicato come uno di quelli a maggiore difficoltà, costruzioni e hotel e ristorazione, oltre che altri servizi. Parleremo anche della scuola per dare alcuni aggiornamenti su quello che è successo e a proposito dei soldi che stanno arrivando o devono arrivare alle imprese. Il DL liquidità alle 18 si tiene il voto di fiducia alla Camera con i vari emendamenti, dai prestiti autocertificati alle garanzie che salgono da 25.000 a 30.000 euro, garanzie del 100% dello Stato e anche lo stop alla segnalazione per la centrale rischi, la garanzia SACE che deve però prevedere anche il blocco delle delocalizzazioni e poi c'è la parte che riguarda le imprese e gli infortuni Covid, importantissima perché non c'è responsabilità del datore di lavoro per il contagio del dipendente se in azienda sono rispettate tutte le regole anticontagio, quelle del protocollo del 24 aprile. E poi un credito d'imposta per il settore fieristico cancellato, che sostanzialmente vedrà un 2020, non dico azzerato, ma molto molto vicino all'azzeramento. Per quello che riguarda invece i mercati, faccio notare che oggi Milano è assolutamente in linea con le altre borse europee, con un rialzo dell'1,5%, Parigi più 1,60%, Francoforte più 1,20%, Londra più 1,12%, il Dow Jones va bene più 2,70%, vanno bene i titoli bancari, ma non solo, Biper Banca più 9,90%, Ferragamo più 7,80%, Leonardo più 6,70%, Mediobanca più 5,60%, Moncler più 5%, Unicredit più 4,5%, Banco BPM più 3,90%, come Fiat Chrysler, il 3,60% lo guadagna CNH, il 3,30% è Steam Micro Electronics, il 3% è il rialzo di Atlantia e di Intesa San Paolo. Tra chi cede, Diasorin meno 5,60%, Nexi meno 1,20%. Per quello che Wall Street ieri era chiusa, oggi sta recuperando, però c'è anche una notizia, non dico di colore, ma emblematica: ha riaperto il floor fisico del New York Stock Exchange, quindi la sala dove si fanno, quella molto vista in TV, dove gli operatori fanno le contrattazioni, era stata chiusa chiaramente per Covid-19. Il tema comunque è di una ripartenza di viaggi, parleremo anche delle indicazioni arrivate sui viaggi, la riapertura delle frontiere e dei voli. Non a caso il settore dei viaggi è il migliore in Europa, le compagnie aeree sono arrivate a guadagnare anche in vari contesti il 15%, perché c'è un pochino di ottimismo sull'andamento del settore aereo. Infatti, se guardiamo i primi titoli per rialzo oggi a Milano, c'è Grandi Viaggi più 16%, Air France, KLM più 11,80%, a dimostrazione appunto che anche Milano in parte ha registrato i rialzi che si vedono a Milano. In generale, sostanzialmente, in Europa il settore viaggi fa più 6,5%, dicevo, le compagniere più 15%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La pagina di Focus Economia sul sito di Radio24, la diretta su Facebook. Sì, in apertura, lo dico a chi mi sta già scrivendo, parleremo anche del tema scuola, su cui continuo a essere, ma non furibondo, molto perplesso. Adesso cercherò di spiegare perché. E anche il tema dei 60.000 volontari, mi sembra che si sia molto, molto ridimensionato. Insomma. E anche perché, come ascolteremo, esiste il terzo settore. Se il tema è dare assistenza agli anziani, a chi è bloccato dal lockdown o dalla quarantena a casa, non servono 60.000 persone volontarie non pagate. Per ordine pubblico è chiaro che non possono servire e anzi rischiano solo di complicare la situazione. Mi sembra che, insomma, in questo momento occupiamoci di altro, lasciamo stare queste proposte che sanno anche un po' di controllo da stato di polizia. Cosa devono controllare questi? Per cui, e con che potere possono controllarlo? 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Dunque, notizie di carattere internazionale in apertura, come sempre. Vola appunto Wall Street, Trump ha twittato, gli stati americani riaprano, la fiducia dei consumatori americani è salita un po' a maggio, ma sotto le attese. E un po' meglio invece la vendita di nuove case, più 0,6%. Per quello che riguarda invece la trattativa europea, che domani entra in vivo sul fondo il Recovery Fund, c'è un po' di ammorbidimento in uno dei paesi, visto che alcuni chiamano, insomma, il modo migliore per questi paesi non è frugali, frugale è una virtù, secondo me la frugalità è anche una sobrietà, Questi sono paesi sostanzialmente tra l'avido, non so, alcuni li chiamano avidi, ma egoisti e miopi, io li chiamerei semplicemente miopi. Comunque il ministro delle finanze austriaco Blumel ha ammorbidito la sua posizione, nel fondo vi potranno essere anche aiuti e non solo prestiti, quello che non vogliamo è che siano solo sovvenzioni e che si tratti dell'inizio della mutualizzazione del debito, ma c'è sempre un dare e avere nelle trattative. Adesso vediamo se la Merkel convincerà questi paesi più o meno satelliti e riporterà a miti consigli. Per quello che riguarda invece l'elemento che ha entusiasmato le borse, la riapertura annunciata di voli e spostamenti, allora EasyJet dal 15 giugno opererà i primi voli in Italia. I primi voli collegheranno tra loro gli aeroporti italiani, tra di loro però di Milano, Palermo, Catania, Bari, Lamezia Terme, Napoli, Olbia e Cagliari. Poi vi sarà invece il collegamento internazionale tra Brindisi e Ginevra. Per quello che riguarda invece i voli all'interno dell'Unione Europea, il governo tedesco toglierà l'allerta sui viaggi per 31 paesi il prossimo 15 giugno. Oltre ai 21 parti dell'Unione Europea, la misura riguarderà anche Gran Bretagna, Islanda, Svizzera e Norvegia. Scusatemi. Il ministro Di Maio ha detto: stiamo lavorando affinché il 15 giugno si possa ripartire tutti insieme in Europa. Il 15 giugno per il turismo è un po' il D-Day europeo. Poi però ci sono problemi, perché per esempio il Tirolo, il governatore tirolese Günther Platter, ha detto: noi per riaprire dobbiamo guardare quella che è la situazione in Lombardia. Lombardia confina infatti con, dove i numeri con 25.000 casi sono ancora elevati. Evidentemente la Lombardia non può essere isolata e in caso di riapertura dei confini da lì si potrebbe andare direttamente in Tirolo, e questo è un problema. La situazione in Alto Adige, in Trentino Alto Adige, invece è paragonabile con quella del Tirolo. E dalla provincia autonoma di Bolzano il presidente Compascio dice che stanno valutando con gli albergatori l'ipotesi di avere dei test gratis all'interno dei pacchetti turistici offerti dalle strutture stesse, ovviamente su base volontaria. Nel frattempo un ultimo dato che riguarda il mondo del vino, perché è un dato su base europea. C'è stato un crollo comunque in tre mesi di una crescita che durava da 5 anni a livello mondiale, il dato dell'area studio di Mediobanca. Per quello che riguarda l'Italia, il 63% delle aziende prevede un calo delle vendite, per il 41% superiore al 10%, a causa soprattutto della chiusura del settore hotel, ristoranti e catering e anche del commercio mondiale. Tant'è che il 60% dei produttori di vino italiani si aspetta una flessione delle vendite nel 2020. Tra vendite nazionali ed estere si stima una contrazione di 2 miliardi di euro. Come va lo spread, mi chiedete? 204 punti, quindi bene. Il Tesoro ha collocato 4 miliardi di CTZ con scadenza 30 maggio 2022, con un rendimento leggermente in calo. Per quello che riguarda invece il DL liquidità, ma ne parleremo anche nella seconda ora del programma, sono arrivate 377.000 domande al fondo di garanzia per oltre 17 miliardi, anche in continua la tendenza che vede nella stragrande maggioranza le richieste per quello che riguarda i 25.000 euro, per cui su 375.000 richieste 341.000 sono riferite ai finanziamenti fino ai 25.000 euro, per un totale di 7 miliardi. Le altre riguardano finanziamenti più ampi, in cui la copertura dello Stato fino ai 5 milioni c'è, ma non al 100%, e si arriva così a 17 miliardi. E il ministro Gualtieri ha detto, riferito alle banche, permangono differenze di applicazione anche se stanno aumentando le erogazioni bancarie, ma non sono le norme in sé a precludere una tempestiva ed efficiente erogazione dei prestiti garantiti alle imprese. E poi sul DL rilancio ha detto Gualtieri in audizione: il metodo migliore per migliorarlo e il dialogo con il Parlamento. Siamo quindi di fronte a un provvedimento molto significativo che cerca di sostenere un paese che ha saputo mostrare un fortissimo grado di responsabilità, forza, coraggio, determinazione e che adesso può incamminarsi sulla strada della ripresa, della prudenza, della ripartenza attraverso un sostegno forte che viene da questo governo e che sono certo che sarà ulteriormente rafforzato e migliorato attraverso il dialogo proficuo con il Parlamento. Abbiamo cercato nella predisposizione di questo decreto di ascoltare le preoccupazioni, le indicazioni pervenute dal mondo produttivo, dai settori sociali. Abbiamo cercato di dialogare, di ascoltare, naturalmente abbiamo tenuto conto anche degli indirizzi del Parlamento e degli ordini del giorno presentati nell'ambito della conversione in legge dei precedenti interventi. Dunque, adesso arrivo alla scuola. Qualcuno mi chiede, ma come, perché il Tirolo si lamenta la Lombardia visto che non confina con la Lombardia, ma solo con, la Lombardia confina solo con la Svizzera? No, attenzione, il tema del Tirolo è dire, non è che vuole improvvisamente confinare con la Lombardia. Il Tirolo ha detto, non il suo Tirolo, il Tirolo austriaco, ha detto, ritenendo che la Lombardia non potesse essere isolata, non so se isoleremo la Lombardia, ha detto dalla Lombardia uno può arrivare direttamente in se l'Italia riapre in Tirolo passando per la Svizzera o immaginando anche passando per il Trentino Alto Adige, e il timore è appunto il tasso di contagio in Lombardia. Però attenzione, non sappiamo ancora se il 3 giugno tutte le regioni potranno aprire verso le altre regioni. Circolano ipotesi, vedremo cosa capiterà il 29, che alcune regioni, la Lombardia è una di queste, forse anche il Piemonte, potrebbero aprire con una settimana in ritardo, cioè lo spostamento regionale potrà avvenire nelle altre regioni ma non dalla Lombardia verso altre regioni, forse una settimana, forse due settimane. Del resto i casi non sono uguali in tutte le regioni, è inutile girarci attorno. Figuratevi che voglio, con che piacere do questa notizia essendo qui residente in Lombardia, però non possiamo neanche far finta che la Sicilia sia uguale alla Lombardia, che la Sardegna sia uguale alla Lombardia. A questo proposito andiamo avanti perché voglio arrivare alla scuola. Su Mittal il ministro Patuanelli ha detto Mittal sta lavorando sotto scudo penale, però il passaggio di accompagnare con gli aiuti di Stato il player privato è obbligatorio. Mentre il ministro Gualtieri, in tema di settori in crisi, cioè la grande maggioranza, ha detto due cose. Ha detto che da un lato è già stata erogata la seconda tranche dei bonus agli autonomi, quella per circa 4 milioni di autonomi, quella di aprile che è arrivata a maggio, 600 euro, ricordando che poi il bonus salirà a 1.000 euro e che è confermato anche per i professionisti iscritti alle casse, mentre da quello che il governo ha chiarito i professionisti iscritti alle casse non potranno avere i soldi a fondo perduto perché non sono imprese. C'è stata una grossa polemica su questo. E poi sulla cassa integrazione, mi riferisco a quella in deroga, ha detto Gualtieri, siamo intervenuti per snellire le procedure, quindi l'autocertificazione in primis, ma soprattutto nella cassa integrazione sono intervenuti dando la deroga all'INPS. So che è brutto dire cassa integrazione in deroga, che va in deroga, però il 40% può essere anticipato dall'INPS, perché lì il problema è che ogni regione si muoveva per conto suo con diverse velocità e lentezze. Gualtieri ha detto poi non ci sono soluzioni magiche e miracolose, non abbiamo ancora ascoltato risposte precise che realizzino questo miracolo. Purtroppo la soluzione magica, miracolosa, che in una riga dà a tutti ciò che è giusto, è difficilmente, insomma, può essere evocata, ma è poi nella pratica a chi si deve sforzare di dare risposte concrete, è molto difficilmente perseguibile. Comunque non abbiamo ancora ascoltato delle proposte precise che realizzino questo miracolo. Quindi la strada non può che essere quella della faticosa, attento lavoro per aderire il più possibile alle pieghe della società e cercare di sostenere nella misura del possibile, con le risorse che il Parlamento ci ha autorizzato a mettere a disposizione, le famiglie e le imprese. Ancora per quello che riguarda altre notizie di carattere italiano, dunque qua tutti i settori sono in difficoltà, alcuni in ginocchio, altri in difficoltà. Il mondo del libro, persi 134 milioni di fatturato in 4 mesi, è una ricerca dell'Associazione Italiana di Editori. Il calo di fatturato nel 2020 potrebbe essere tra i meno 650 e meno 900 milioni rispetto ai 3 miliardi e 200 milioni del 2019. Nel lockdown si sono perse l'85% delle vendite praticamente il primo canale per l'acquisto è stato chiaramente l'acquisto online, pari al 47% nelle prime 16 settimane del 2020 nell'acquisto di libri. Oh, vorrei adesso parlare un secondo di qualcuno mi chiede sì, di Alesina, dirò dopo. Il dolore chiaramente è stato molte volte Alberto Alesina nostro ospite, magari ascolteremo anche un passaggio di alcuni suoi interventi per la scomparsa dell'economista. Per quello che riguarda invece qualcuno mi chiede di commentare ancora Gallera, ma per favore dai, adesso cerchiamo di stare seri. È chiaro che Gallera ha detto una castroneria, poi ha cercato di rimediare, ma fosse questo il problema della gestione lombarda, guardate, ci metterei la firma dei due contagiati per dei due positivi per contaggiare me, ma il problema mi sembra che siano altri. Però prima di arrivare lì vorrei capire, mi chiedo di capire alcune cose, non sono uno scienziato, non sono un virologo, non sono nulla, ma alcune cose che non mi tornano sul tema scuola, ed è un appello che rivolgiamo direttamente al ministro Azzolina, perché mi sembra che sia, l'ho già detto questo, ma è il ministero che sta comunicando meno in assoluto, non si riesce a intervistare nessuno. Poi la vice ministra Scani ha detto potremmo pensare comunque, e l'ha ribadito oggi, potremmo pensare a un ultimo giorno di scuola per tutti, è stata poi sconfessata, ma ci sono alcune cose che non capisco. Dunque, la vice ministra dell'istruzione Anna Scani aveva detto assieme ad altri, per esempio penso al sindaco di Firenze Nardella, ci sono petizioni di insegnanti e anche di genitori insegnanti, proviamo a fare almeno l'ultimo giorno di scuola, che per le terze medie, per le quinte può avere le quinte elementari può avere un senso. Poco fa è uscito la nota del comitato tecnico scientifico che ha deliberato negativamente sulla possibilità di riaprire le scuole per l'ultimo giorno dell'anno scolastico. Il coordinatore del CTS Agostino Miozzo ha spiegato che tutti i componenti del comitato hanno deliberato negativamente sulla possibilità di trascorrere l'ultimo giorno dell'anno scolastico in classe. Anche la vice ministra Ascani ribatte: se il comitato tecnico scientifico non ritiene sia abbastanza sicuro fare incontrare gli studenti delle classi in piccoli gruppi, delle classi terminali, si parlava delle quinte elementari, terze medie e quinte superiori, e in piccoli gruppi nelle scuole, lavoreremo con gli enti locali e i territori per consentire di farlo all'aperto o in altri luoghi che possono essere adatti. Tutto questo andrà fatto in sicurezza su base volontaria per studenti e famiglie, tutelando la responsabilità di ciascuno. Ora, io non capisco alcune cose su questa cosa della scuola. Allora, prima di tutto, prendiamo dei paesi che quanto a contagi e ahimè deceduti sono molto simili all'Italia, in alcuni casi anche peggio. Penso alla Spagna e alla Francia, non voglio neanche parlare, e il Belgio. Il Belgio le scuole hanno riaperto il 18 maggio, ma in ogni classe sono ammessi al massimo 10 alunni. La Francia ha aperto le scuole elementari e materne l'11 maggio, ma solo nelle zone verdi. dove il contagio è sotto controllo. Il 18 maggio sono rientrati a scuola anche 1.600.000 alunni delle scuole medie, sempre solo nelle zone verdi. I licei non riapriranno prima di giugno, massimo 15 alunni per classe, mascherine obbligatorie. Ancora, la Spagna, una prima riapertura lunedì 25 maggio solo nelle regioni che sono entrate nella fase 2, restano escluse le altre aree, per esempio Madrid. Invece Navarra e Catalogna apriranno il 1 giugno, l'Andalusia dopo l'estate. Allora, per una vera riapertura se ne parla solo settembre. Ora io chiedo una cosa: perché in altri paesi simili ai nostri hanno almeno deciso di aprire zone verdi, zone rosse? Cioè, io voglio capire una cosa: ma perché un bambino di quinta elementare della Basilicata, della Calabria, della Sardegna, ma anche della Sicilia, non può tornare in classe con i casi che hanno e deve, diciamo, sottostare a un'unica decisione che vale per la Lombardia, e posso capire, come per la Basilicata e l'Umbria? Mi sembra una follia. Dopodiché non ho sentito nulla, cioè il comitato più segreto del mondo, abbiamo cercato Patrizio Bianchi moltissime volte, non può parlare, Miozzo l'abbiamo cercato, non può parlare, la ministra Azzolina, lasciamo sta, è meglio che a questo punto, se le volte non parla, per quello che le ho sentito dire. Ma è mai possibile che non si sia provato, neanche tentato, di guardare ad altri modelli con indici di contagio simili al nostro, quindi le aree verdi di Francia e Spagna? Perché lì sì e qua no? Seconda domanda, pongo delle domande, perché, che senso ha da un punto di vista epidemiologico, cioè dei virologi, non portare neanche con gruppetti di 5? Ho visto adesso la lista degli esami della scuola media, verranno fatti via web con 5 alunni di ogni classe al giorno. Non si riusciva nella corte interna, nelle palestre, a fare la stessa cosa come presenza fisica? Almeno davi il senso dell'istituzione? C'è un problema con gli insegnanti che erano fuori sede? Spiegateci qual è il problema. Ho capito che i professori italiani sono anziani, ma non è che questo può penalizzare un... è la colpa mia se gli insegnanti italiani sono anziani? Dopodiché c'è una cosa che mi sfugge ulteriormente. Perché Francia e Spagna e Belgio hanno tentato un modello, appunto, articolato, alcuni sì, altri no, su base volontaria, ma c'è stato un tentativo. B, che senso ha, lo chiedo ai virologi, tenere le scuole chiuse e vedere tutti i giorni ragazzi o bambini dai 6 anni nei parchi con i nonni, perché dove li lasciano questi bambini, le famiglie? O tu puoi lavorare da casa e allora sei fortunato, o se no, se devi lavorare e non hai i soldi per la babysitter, li lasci con i nonni. Ma anche lasciarli con la babysitter, non è che la babysitter non venga infettata, ossia, diciamo, anche la babysitter allora può diventare veicolo di infezione. Ma soprattutto li vedi nei parchi a giocare giustamente tra di loro con i nonni e le babysitter, poi li vedi girare, se sono più grandi, adolescenti, per i fatti loro, giustamente, lasciata l'aperitivo tutto il giorno. Cioè, quindi questi non c'hanno una mazza da fare tutto il giorno, perché le lezioni online sono poca cosa, possono aggregarsi dove vogliono perché così fanno, ma l'importante è che non si aggreghino a scuola. Se qualcuno mi sa spiegare questa logica, cioè perché un adolescente o un bambino è meno infettante quando va al parco, quando gira col nonno, quando sta con la babysitter, e diventa invece una bomba virologica anche magari in 5 in classe, e non si riesce neanche a fare un colloquio neanche l'ultimo giorno, da che deduco, ministra Azzolina, che sono pazzi in Francia, sono pazzi in Spagna nelle aree verdi, e soprattutto che esiste una differenza virologica tra il bambino che gioca al parco, sta col nonno, sta in, e lo stesso bambino che invece va in classe pur a distanza, e magari per quelli meno piccoli, cioè dalle medie in poi, si poteva anche immaginare la mascherina. Cioè, stanno in giro con le mascherine, perché non possono portarle in classe? C'è un problema di responsabilità? Avevano paura i direttori scolastici, i dirigenti scolastici, i presidi, gli insegnanti, di prendersi la responsabilità? C'è un comitato scientifico esoterico che non si capisce? Ci potete spiegare, Miozzo, l'abbiamo cercata, Agostino Miozzo, ci può spiegare sulla base di quali? Perché non mi basta dire, non è mica, capito, la Dea Calì. Cioè, il CTS ha deliberato, ci potete spiegare sulla base di quale valutazioni, guardando anche agli altri paesi, guardando se veramente c'è stato, magari scopriamo appunto che Francia e Spagna sono dei pazzi criminali, non è mica l'oracolo di Delfi il CTS, Miozzo ci faccia capire, aggiunga qualcosa, non c'è neanche una dichiarazione, sono solo avrebbe spiegato che tutti i componenti sono contrari. Benissimo, ho rispetto per il CTS, però ce lo devi anche spiegare se non si capiscono alcune cose. Ecco perché non ho voglia di parlare dei 60.000 assistenti civici, mi dispiace per lo scivolone fatto dal ministro Boccia, perché qua non si tratta di buttare sempre la palla da un'altra parte. Io voglio sapere dal ministro Azzolina in base a che cosa hanno fatto le valutazioni, in base a che cosa hanno spianato il paese, come se le strutture scolastiche del sud fossero identiche a quelle del nord, come se la diffusione del virus fosse identico al sud come al nord e via così, valutando se c'erano scuole che avevano impianti sportivi dove si poteva cercare di fare almeno una lezione, almeno gli esami delle scuole medie, almeno l'ultimo giorno come cerca l'Ascani. Voglio sapere, l'Ascani e l'Azzolina si parlano? E soprattutto, quando si parlano, parlano la stessa lingua? Gli insegnanti, alcuni protestano, hanno ragione, dicono ma vorremmo tornare a insegnare. I sindacati sono più preoccupati per il modo in cui verranno assunti i precari. Ma qualcuno, ma un sindacato dei bambini, degli studenti, c'è in sto paese? No, non c'è. Perché non lavorano e non votano. Meteo. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. minuti. Allora, c'è chi continua a scrivermi: guardi che in Francia hanno richiuso. Deve leggere bene le informazioni. Hanno richiuso 70 scuole per alcuni casi su 40.000. Altri mi dicono: ah, un conto è un luogo chiuso, un conto è un luogo all'aperto. E infatti io ho solo detto: si potevano valutare gli spazi all'aperto, gli spazi più grandi. Le scuole che conosco io hanno di sotto delle corti interne, dei campi da gioco. Provarci, mettere a disposizione spazi chiusi in questo momento, teatri, cinema, non lo so, tentarci. Nessuno ci ha voluto tentare, perché tanto il problema era la responsabilità, perché giustamente i dirigenti dicevano: beh, se capita qualcosa poi la responsabilità chi va, le cause chi vanno, è tutto così. E per non responsabilizzarsi, la cosa importante è intanto tener chiuso. A chi mi dice: guardi che lei non vuole proprio capire, io sai cosa le dico? Sa che l'Italia è l'unico paese che non ha, in tutta Europa, che non apre neanche in alcune regioni. Cioè, voglio dire, la Gran Bretagna vuole aprire, Scozia e Nord Irlanda vogliono restare chiuse, va bene, ma nulla questio se la Lombardia fosse rimasta chiusa visto il numero di contagi e altre regioni del sud avessero aperto. Oppure potevi distinguere sul base di criteri: hai uno spazio all'aperto, puoi riaprire, riesci a trovare soluzioni alternative, puoi riaprire, ma almeno tentarci. Poi si vive bene così. Ancora siamo qua a stare a settembre. Dovrebbero aprire le elementari, le medie, però le superiori forse a settembre no, forse ancora qualche mese, così poi se riparte il corona a novembre questi non riaprono proprio più. Ma che cosa hanno fatto in questi mesi in questo comitato? Vabbè, veniamo agli assistenti civici, così tanto l'hanno bocciata tutta, l'ha bocciata Variati, il sottosegretario all'interno, il ministro De Caro, il sindaco De Caro ha detto ma non avranno mai compiti di controllo. Una intervista però la vorrei far sentire, un pezzo di intervista realizzata da Alessio Maurizio oggi durante Effetto Giorno, perché allora se non hanno poteri non fateli neanche andare in giro, perché rischiano invece di mettersi nei casini, e non ha senso mandare in giro un volontario con una giacchina gialla per dire guarda che non puoi star lì. Ci sono i vigili urbani, la polizia, la guardia di finanza, i carabinieri, questi abbiamo. Due, se devono aiutare svolgere i lavori del terzo settore, ma perché devo arruolare 60.000 persone che non l'hanno mai fatto quando esiste il terzo settore? Sentite cosa ha risposto appunto Alessio Maurizi, Patrizio Losi, che è presidente del Comitato Nazionale del Volontariato della Protezione Civile. Le regole del bando non le conosciamo ancora, pertanto quali saranno le specificità non le sappiamo. Sappiamo a livello generico che dovranno fare alcune cose, sicuramente non dovranno fare i controlli. Al massimo potranno essere semplicemente dei megafoni delle ordinanze del sindaco, delle ordinanze del capodipartimento. Questo tipo di attività nell'ambito della Protezione Civile è spesso stata utilizzata a fronte di situazioni emergenziali pesanti. Per cui blocco di una zona rossa per Amatrice piuttosto che altre situazioni di quello che è nel turismo dell'emergenza della domenica, che tutti i turisti vanno a vedere dove ci sono stati i crolli. Per cui i volontari sono alle transenne di zone rosse, ma non fermano il traffico se non c'è l'ordine pubblico, cioè se non c'è un poliziotto o quant'altro. Però questo tipo di attività è addirittura nell'ambito di nostre formazioni specifiche interne, che si chiama comunicazione con la popolazione, che vuol dire che un volontario di Protezione Civile fa questo tipo di attività, però a fronte di un corso, di una formazione specifica, perché è facile anche che scatenare risse o altre situazioni. Il mondo del volontariato, che nasce con i suoi principi, cioè noi, il volontario di Protezione Civile ha dei principi interni per cui fa il volontario, e se fa il volontario di Protezione Civile vuol dire che c'è una formazione. Tutto questo nelle comunicazioni che sono arrivate alla popolazione assolutamente siamo lontanissimi, cioè si parla di un bando, un click day dove i nostri concittadini si iscriveranno, l'unico requisito potrà essere solo che sappiano camminare e respirare, voglio dire, per cui ci potrà essere una 60.000 persone di cui noi non sappiamo assolutamente nulla, non c'è nessun filtro. Dai, per favore, tornate indietro su questa cosa, ci sono tanti altri problemi, ci sono imprenditori ancora furibondi con il click day di Invitalia, e per cui dopo un secondo e 64 centesimi era già tutti i finiti soldi a disposizione per chi aveva speso in attrezzature di protezione medica. Ma perché bisogna sempre buttare altra roba sul fuoco? State sulla sul pezzo! Già il governo deve affrontare una situazione mai vista prima, ma manca solo i 60.000, i concorsi per i 60.000 volontari che non si sa che cavolo fanno. Qualcuno ha detto usiamo quelli del reddito di cittadinanza, sì, piuttosto usiamo quelli, ma insomma. Allora, una mamma mi ha appena mandato la foto bellissima, non ve la posso far vedere chiaramente via WhatsApp, di una scuola dove la scuola è chiusa ma il campetto accanto che è aperto è pieno di ragazzi. Ma è giusto, dai, così tutti quelli che mi stanno insultando io dico giusto, possono andare a giocare a calcio con la mascherina, spero, ma non possono andare a scuola con la mascherina, dai. Michele Pizzarotti, vicepresidente e consigliere di amministrazione di Pizzarotti S.p.A. di nuovo, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ci eravamo interrotti sul tema degli appalti, perché lo dico? Perché con lei ci aveva portato degli esempi anche molto concreti di quello che significa fare opere pubbliche in Italia, infrastrutture in Italia. Se non ricordo male erano due, era la Sassuolo-Reggio Emilia e la Bretella... Campogalliano-Sassuolo. Campogalliano-Sassuolo. Che è una Bretella, e la Cispadana, che è un'opera della regione Emilia-Romagna. 20 anni, giusto? Dal 2008, allora, hanno il difetto di essere opere bandite su un progetto preliminare, quindi in un iter burocratico che coinvolge più enti ed è complicatissimo, partire dal preliminare rende veramente ancora più complicato il tutto. E poi dopo, da allora, diciamo, tendenzialmente si bandisce sul definitivo o su un esecutivo, questo vuol dire che il progetto è quasi pronto per la costruzione ed è più rapido. Allora, vorrei sapere che cosa ne pensa della proposta del governo, perché il prossimo DL, il decreto di cui ci occuperemo, sarà il decreto semplificazione, quello che deve mettere mano, io spero, al Moloch, al virus nel virus di questo paese che si chiama burocrazia e si chiama anche paura dei funzionari di essere poi chiamati in causa. Tant'è, le responsabilità dei funzionari pubblici dovrebbero essere delimitate in modo che non ritardino all'infinito l'aumento della firma per la paura di essere accusati di danno erariale, razionalizzare la normativa sulla privacy per impedire che diventi un ostacolo al passaggio dei documenti tra le amministrazioni, e poi ancora sugli autocertificazione e semplificazione delle procedure per gli appalti, una riforma mirata per sbloccare circa 70 miliardi quest'anno e altrettanti nei prossimi 2 anni. Sono 220 miliardi di opere previste dalle leggi degli anni passati, opere già previste e bloccati. Anche perché il governo stima che per ogni euro che io investo in un'opera infrastrutturale, l'indotto, cioè la ricaduta sull'economia, ne vale tra i 4 e i 5 euro. Lo dico ogni volta, e sono soldi che vengono effettivamente spesi, non soldi che possono essere messi in conto corrente risparmiati. Allora, la prima tranche di 30 miliardi riguarderebbe Ferrovie e ANAS, perché ai rispettivi amministratori delegati verrebbero attribuiti poteri commissariali, e poi c'è l'idea di nominare 12 supercommissari per portare a termine 25 opere nazionali definite strategiche. Procedure semplificate, anche se resterà in vigore la normativa antimafia, e questo mi sembra importante. E poi altri 39 miliardi verrebbero sbloccati per finanziare le opere pubbliche di interesse locale, strade, ma soprattutto scuole, e l'ipotesi di un passaporto delle imprese, che permetterà alle aziende di sapere subito se hanno i requisiti per partecipare a una gara d'appalto. Dovrebbe essere anche snellito il meccanismo di qualificazione della stazione appaltante, che oggi ne certifica la fidabilità organizzativa e tecnica d'intesa con l'ANAC. Pizzarotti, lei che poi il lavoro lo fa tutti i giorni, le sembra un piano che va nella giusta direzione? Sì, diciamo che come ANCE la base di partenza era il riconoscimento del fatto che si tratta di una causa di forza maggiore. Sì. Quindi questo avrebbe consentito tramite decreto di dare mandato a tutti i committenti pubblici e privati di riconoscere i costi da fermo cantiere, i maggiori costi di sicurezza. Questo, secondo me, se non si parte da questo, manca proprio la base solida per affrontare un periodo come questo. Quindi il riconoscimento dei maggiori costi di sicurezza fermo cantiere e la lenta ripresa che abbiamo previsto. Poi c'è sicuramente interessante il discorso di cercare di limitare la responsabilità erariale dei funzionari pubblici, perché è uno dei temi che vediamo più critici e che portano i funzionari ad essere più propensi a stare fermi che a muoversi. Un po' sul modello della scuola, quello che dicevo prima dei dirigenti scolastici, sì. Perché tanto la paura è che se poi o il governo emanava una direttrice chiara che tu non eri responsabile, o se no figura quale dirigente vuole prendersi la responsabilità di aprire la scuola, e così chiudo su questo, e i ragazzi sono in giro nei pub a bere, nei parchi, a giocare a calcio, i bambini, così, sono dappertutto tranne che a scuola. Comunque, torniamo sulle opere pubbliche. E passaporto per le imprese la convince, Pizzarotti? Beh, allora, c'è già un rating di impresa in vigore. Per esempio, noi come impresa ce l'abbiamo, ed è sicuramente può essere un metodo utile, abbastanza complicato ottenerlo. Però, insomma, la maggiore qualificazione delle imprese, anche dal punto di vista del loro operato trascorso, è sicuramente utile, insomma, una qualificazione ci vuole. È importante sicuramente il discorso di nominare gli amministratori delegati dei principali committenti. Cioè Ferrovie e ANAS, diciamo. Ferrovie e ANAS e anche altre committenti con dei poteri speciali. Come anche siamo un po' dubbiosi sul fatto che comunque le gare verrebbero fatte di fatto con una procedura negoziata, perché è molto discrezionale, insomma, una gara per quanto più snella. Ecco, su questo volevo concludere. Lei è d'accordo quindi con l'ANCE, con i costruttori italiani che dicono attenzione al modello Genova, lì c'era una situazione emergenziale, un disastro, e si è andati senza gara con il commissario, però l'ANCE dice attenzione, devi garantire un po' la concorrenza tra le imprese, non è solo per il rischio di un eccesso di discrezionalità, è che insomma la gara tra imprese di solito dovrebbe portare, quando fatta bene, non quando fatta solo come criterio col massimo ribasso, anche a una maggiore efficienza nel sistema. Sì, io infatti sono anche vicepresidente dell'ANCE. E allora ho chiesto all'oste se il vino è buono. Vabbè, ma lo dico anche come persona, come vicepresidente dell'impresa Pizzarotti, nel senso che sono pienamente d'accordo sul fatto che il commissario era un caso del tutto eccezionale, ma insomma una gara con la valutazione qualitativa e quantitativa dell'offerta non può sparire in questo paese, insomma non si può dare una totale discrezionalità a un commissario nella scelta delle imprese. Ecco, Pizzarotti, però, visto che con lei commentavamo venerdì scorso che c'è un dossier di Palazzo Chigi dove si scopre, tra virgolette, che per realizzare un'opera superiore a 100 milioni di euro servono 15 anni e 8 mesi in questo paese, di cui 8 anni per la cosiddetta inerzia burocratica. Ed è da lì nascono 749 opere bloccate per 62 miliardi, le grandi opere sono 56 miliardi, e l'ANCE stima 962 mila nuovi posti di lavoro e 217 miliardi di ricaduta, appunto perché c'è una... c'è un effetto moltiplicatore per ogni euro speso in edilizia, in opere pubbliche, molto alto. Se lei dovesse dirmi come titolo, prima di salutarla, di tutti questi 15 anni, dov'è l'imbuto, l'ho già fatta la battuta ma lo ridico, quello vero, che blocca così, che rallenta, e dove dovrebbe intervenire questo DL semplificazione? La parte, diciamo, del funzionario pubblico, e quindi limitare un po' di più la sua responsabilità penale e civile? Quello sicuramente aiuta, perché nel nostro paese manca proprio un minimo di discrezionalità nella scelta, cioè se non c'è una cosa che è perfettamente rispondente alla norma non ci si muove, quindi come voglio dire ci sono dei passaggi complicati, la discrezionalità e il potere di autonomia è importante senza rischiare, diciamo, un danno erariale. Poi sono molti lenti i tempi di passaggio da un ministero all'altro, quindi vanno limitati al massimo. So che ci sono un tentativo di restringere ancora i tempi, per esempio, della valutazione di impatto ambientale a 30 giorni. E se sono tempi veramente che non possono essere oltrepassati, sicuramente quello aiuterebbe per forza. Allora, grazie anche, e vediamo di capire se e quando arriverà subito a Palazzo Chigi il DL semplificazioni, il decreto semplificazioni, che ripeto avrà un grosso, dovrebbe, mi auguro, avere un grosso impatto anche sulla parte dell'edilizia e delle opere pubbliche. Grazie anche a Michele Pizzarotti. Prima di lasciare la linea al GR vedo una cosa divertente si fa. Ora, con Pascher, il presidente della provincia di Bolzano ha detto che dal 3 giugno i cittadini tedeschi potranno venire in Italia e tornare a casa senza essere messi in quarantena. Ma lo decide la provincia di Bolzano, se i confini sono aperti? Che anche le norme in vigore in Austria riguardano solo l'ingresso nel paese, non il transito. Sì, ho capito, ma vale per tutti, compasce. Ho capito che vi piacciono più i tedeschi che gli altri, però la riapertura dei confini nazionali non è la riapertura dei confini dell'Alto Adige, nazionali, c'è la bandiera italiana fino al confine. So che magari può non piacere a qualche Schützen, testa di Schützen. Dai, GR24. Ciao, sono Barbara da Nuoro, I love my radio. Ciao, sono Anna da Cremona, I love my radio. Ciao, sono Rosaria da Napoli, I love my radio. Gli italiani amano la radio. La partecipazione del pubblico ai programmi della radio è aumentata di oltre il 27%. Il tempo speso in ascolto digitale della radio è aumentato del 61%. Ed è l'amica sempre vicina a 37 milioni di persone. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, i dati diffusi dalla Protezione Civile poco fa, dico subito che continua una tendenza positiva che abbiamo già visto nei giorni scorsi. I decessi, partiamo da lì, sono 78, ieri 92, il giorno prima 50, comunque è il terzo giorno che sono da domenica sotto quota 100 e sono anche più bassi di ieri, un incremento dello 0,2%. I guariti più 2677 più 1,9%, i positivi meno 2358 meno 4,26%. I nuovi contagiati sono 397 e anche questo è un numero in linea con quello di ieri, 300, domenica 531, è la metà più o meno di tutto l'andamento della settimana scorsa, quindi il dato è buono. E le terapie intensive 20 posti in meno, e anche qui un calo significativo del 3,7%. Il totale dei ricoverati scende di 288 persone, sono il 3,3%, non quelli in terapia intensiva, tutti ricoverati con sintomi. Sono dati importanti perché più va avanti il tempo, più iniziamo a confrontarli non solo col 4 maggio, ma anche col primo weekend, che fu il weekend dell'8-9, e si inizia anche a fare un raffronto, più passa il tempo, con la fase 2, con gli effetti della fase 2. A guardare questi numeri non sembra esservi, anzi, un aumento dei contagi, ma quelli sappiamo che dipendono anche dal numero dei tamponi fatti, soprattutto. Però non sembra esserci nuova pressione nei ricoveri e, per fortuna, e nelle terapie intensive. E anche il numero di decessi per ora continua a restare sotto quota 100. Allora, Andrea Mignanelli, amministratore delegato di Cerved, che è un soggetto privato che opera nell'analisi del rischio di credito e fa anche agenzia di rating in Europa. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Dunque, voi oggi avete fatto un rapporto, come appunto Cerved Rating Agency, in cui stimate il 15% delle imprese italiane a rischio fallimento. Ma la cosa che mi interessa di più è la distinzione tra i settori, perché continuo a dire che più andremo verso una fase 3, quindi riaperture non solo, ma anche circolazione, libera circolazione dentro le varie regioni e ingresso degli stranieri, sembra dal 15 giugno, adesso vediamo cosa decideranno sia il governo che l'Europa, più bisognerà andare ad essere molto selettivi sui settori che resteranno, ahimè, in ginocchio, mentre altri potrebbero iniziare a risollevarsi, sicuramente porteranno a casa dei cali, ma magari meno significativi. Quali sono i settori che voi avete individuato dove sono più alte le possibilità di fallimento? Beh, allora, i settori rispetto alle analisi precedenti vengono confermati, diciamo, nell'ambito delle costruzioni, il primo, e poi molto anche in tutto quello collegato ai viaggi, al trasporto, al turismo, quindi alloggi, ristorazione, turismo, collegati all'ambito delle costruzioni, segue immediatamente dopo l'attività immobiliare in generale, e poi due settori diversi da questi che ho citato sono l'industria automotive in generale, che come sapete sta vivendo una battuta d'arresto proprio planetaria, mm-hmm. E poi il commercio tessile vestiario. Questi sono i primi, diciamo, sei per impatto, e qui le probabilità di default, cioè il rischio di fallimento delle imprese, viaggia da tra il 18 e il 22% tra i vari settori. Ho picchi del 22% in ambito costruzioni e un minimo del 18% nel commercio tessile e vestiario. Quindi costruzioni, hotel, ristorazione e servizi e commercio. Avete visto, però, avete valutato anche dei settori più resistenti, cioè dove il rischio è nettamente più basso? Sì, allora qui abbiamo diciamo, in cima alla lista quei settori che per certi versi addirittura, come dire, sono impattati positivamente dal Covid, che sono il commercio, diciamo, dei generi alimentari, i prodotti medicali, le parafarmacie, le farmacie naturalmente, l'industria alimentare in genere, l'agricoltura e poi l'informazione e la comunicazione, perché sono tutti beni o primari o intangibili, che quindi saranno impattati meno dalla scarsa mobilità di merci e persone. Ora, questa è una fotografia che voi fate statica. Tra l'altro, mi scusi, voi individuate anche un maggior rischio in alcune tipologie di imprese e anche a seconda della loro collocazione territoriale? Sì, è molto importante. C'è una differenza piuttosto marcata sulla dimensione delle aziende. E così come pre-Covid le aziende più piccole naturalmente sono quelle più più a rischio. Quindi noi normalmente la tassonomia che usiamo è dividiamo tra imprese grandi, medie, piccole e micro, no? Quindi piccoli operatori economici. Prima del Covid avevamo un rischio medio delle imprese italiane del 4,5%, che in realtà era la media del pollo, perché avevamo le grandi imprese che erano distese al 2%, cioè il 2% delle imprese rischiavano di fallire all'anno, mentre le micro 7,2%, quindi media 4,5%. Negli scenari che abbiamo disegnato, quello diciamo intermedio e quello ancora più pericoloso, quindi con una ricaduta del lockdown e in altre sessioni nei prossimi mesi, la media va a 9,7%, quindi a 4,5 a 9,7 raddoppia e addirittura triplica nello scenario più pericoloso al 15,5. Vengono mantenute le proporzioni tra i vari segmenti, quindi anche nello scenario peggiore, che ha una media al 15,5, in realtà le imprese grandi hanno un rischio di fallimento dell'8,5%, mentre le imprese medie, cioè piccole e micro, vanno dal 18 al 21%. Quindi ne restano molto più rischiose delle grandi, in proporzione più che triplicano diciamo il loro rischio a seconda degli scenari. Ecco, che cosa potrebbe mutare in meglio? Nel senso che voi fate una fotografia statica, diciamo, siccome adesso parleremo poi degli interventi, inizia adesso il voto per quello che riguarda il DL imprese, cioè la liquidità alle imprese, e sappiamo che la richiesta altissima è arrivata soprattutto sui prestiti fino a 25.000 euro, sono su 377.000 domande, diciamo 375.000 sono quelle per il Cura Italia liquidità, di cui 341.000 sono per operazioni fino a 25.000 euro. Ecco, che cosa immaginate, perché la liquidità può servire o anzi serve sicuramente in molte imprese anche per il circolante, cioè per pagare i fornitori, per pagare i dipendenti. 25.000 euro non sono una cifra tale da permettere investimenti, ma voi immaginate che per quei settori vi debba essere un secondo o terzo, chiamatelo come volete, giro di interventi, magari di carattere fiscale? Ma guardi, dalle nostre rispondo alla sua domanda con facendo due precisazioni. La prima è che questi numeri che ho appena citato sono impattati da due dimensioni fondamentali, ovvero l'evoluzione della pandemia e la reazione del governo, no? Quindi gli interventi che ha appena citato lei. Il combinato di queste due direttrici poi creano gli scenari. Quindi non commento sulla pandemia, perché non sta a noi prevedere se ci sarà o meno un secondo lockdown, un terzo lockdown, però è evidente che se ce la caviamo con 2-4 mesi, come sembra essere adesso lo scenario più probabile, sarà un conto. Se a ottobre dovessimo avere una ricaduta con altri 2 mesi di lockdown, chiaramente saremmo sullo scenario peggiore. Per quanto riguarda invece la politica del governo, io credo che questa volta abbiamo messo in pista le risorse necessarie, cioè il problema non sia l'ammontare, perché dalle nostre simulazioni la crisi di liquidità delle imprese può essere gestita con contributi per 80-100 miliardi, no? Quindi il totale del rischio di liquidità delle imprese italiane in questo ordine di grandezza, e quindi le misure messe in atto dal governo in realtà sembrerebbero essere capienti questa volta. Quello che conterà veramente molto è la velocità con cui queste misure vengono trasformate in azioni, e le azioni si trasformano in un contributo fattivo alle imprese in termini di cassa nel breve e in termini poi eventualmente di facilitazione di gravi fiscali nel medio e lungo termine. Però quello che conta veramente per evitare che si mette una crisi finanziaria e quindi una pandemia finanziaria è la velocità. La velocità. È fondamentale. Non è una variabile esterna la velocità, come sa qualunque medico quando deve curare un paziente, vale anche quando devi curare le imprese. Che arrivino adesso, sì, che arrivino fra 2 mesi, che la cassa integrazione venga, in molti l'hanno anticipata, lo so benissimo che molte imprese, ma quando era quella ordinaria l'anticipi e poi vai in credito con l'INPS. Però in altri casi non si riesce neanche a anticipare, ecco perché la velocità è fondamentale, anche del plafond. Dei soldi a fondo perduto, cioè lo Stato che va a piangere, abbiamo spiegato molte volte, gli aiuti a fondo perduto valgono 6 miliardi, vanno a coprire il 20% di quanto perso tra aprile 2020 e aprile 2019, se hai perso più del 35% del fatturato, la soglia poi diminuisce, che tu se tu 33% fino a 400.000 euro lo Stato ti dà il 20% della differenza, cioè su quello che hai perso, poi ti dà il 15%, poi fino a 1,5 milioni ti dà il 10%. Ma la velocità, sono d'accordo con lei, è fondamentale, ma non sembra capirlo un pezzo del paese, quello più burocratico, quello che pensa prima a tutelarsi, ma anche un pezzo del mondo bancario, che non sembra capire che se poi tutte le filiere vanno giù o non si rialzano, dalla situazione in cui sono, saltano anche le stesse banche, che spesso sono indebitate, hanno crediti con queste filiere produttive. Quindi è inutile, ti conviene mantenerlo in vita l'imprenditore, non perché sennò tu pensi di risparmiare 25.000 euro perché ci guadagni poco sopra, ma in realtà ti salta un sistema produttivo. Grazie anche a Andrea Mignanelli, amministratore legato del CERVET. Dopo il traffico, anzi non c'è il traffico, e allora andiamo subito al prossimo tema, che è proprio le modifiche al DL liquidità, visto che da pochi minuti è iniziato il voto di fiducia alla Camera. Dunque, se ho ben capito, le modifiche più rilevanti, gli emendamenti, sono stati, vabbè, da un lato le garanzie al 100% salgono da 25.000 a 30.000 euro e diventa poi possibile attivare prestiti con durata superiore a 10 anni, fino a 30 anni, per i finanziamenti fino a 800.000 euro, con copertura all'80% da parte dello Stato e estendibile al 100% con i Confidi. Stop alla segnalazione per la centrale rischi, per evitare che la macchina dei prestiti si inceppi a causa di una segnalazione. E ancora, per quello che riguarda i piccoli, i 25.000 euro, c'è l'autocertificazione per tagliare i tempi della concessione. Sostanzialmente si chiede che si candida al prestito di dichiarare dati aziendali, fedeltà fiscale e antimafia di titolari vertici aziendali in autocertificazione. Attenzione, l'autocertificazione, se dichiari il falso vale il penale. Poi per le garanzie più alte, quelle sopra i 5 milioni dove interviene la SACE, avranno l'obbligo, chi lo richiede, le aziende che lo richiedono, di mantenere i livelli occupazionali e non potranno delocalizzare la produzione. Rafforzato il paletto sull'impossibilità di distribuire dividendi o procedure di riacquisto di azioni proprio nel 2020. Le fiere cancellate avranno il credito d'imposta del 30% delle spese sostenute, se le fiere sono state cancellate per coronavirus. E poi l'altra cosa che importava molto alle imprese era il DL liquidità andrà ad assorbire la norma che va a limitare la responsabilità delle imprese per il contagio da Covid nel caso avvenisse tra i dipendenti, nel senso che se il datore di lavoro e l'azienda hanno rispettato tutte le regole anticontagio, non c'è responsabilità del datore di lavoro. Visto che parlavamo di prestiti poco fa, Intesa San Paolo ha deliberato il prestito su cui poi interverrà la garanzia SACE al gruppo Fiat Chrysler da 6 miliardi e 300 milioni di euro. Sarà con Fiat Chrysler Italia e sarà interamente dedicato alle attività italiane dell'azienda automobilistica, per retribuire i dipendenti, pagare i fornitori per la produzione degli impianti italiani e mettere in sicurezza la realizzazione degli investimenti. Dino Pesole del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Ora, eccomi. L'augurio che tutti ci facciamo, visto le domande, è che questo serva a snellire la procedura, o diciamo il mondo bancario potrebbe, in alcuni casi, non tutte le banche sono uguali, continuare a opporre resistenze e rappresentare l'imbuto vero e proprio. Beh, questo non si può escludere, però dobbiamo obiettivamente osservare come il lavoro fatto dalle commissioni finanze e attività produttive della Camera sia stato importante, ponderoso, perché una delle molte criticità che erano state evidenziate in questo decreto, che si chiamava e si chiama liquidità, e che appunto di liquidità poi rischiasse di arrivare ben poca o comunque dovesse passare attraverso una serie di procedure troppo complicate, e dunque c'è stata una forte pressione anche da parte delle imprese, non solo perché queste norme venissero modificate, Devo dire che le novità introdotte, che poi a questo punto saranno definitive, perché il voto di fiducia chiude il percorso alla Camera e al Senato non ci saranno ulteriori modifiche, vanno nella direzione auspicata. Cioè, ad esempio il tema dell'autocertificazione, certo, per i prestiti, tu ricordavi che l'autocertificazione non è, come dire, un'autorizzazione a prescindere, ma se uno dichiara il falso va incontro a conseguenze pesanti, però sostanzialmente aver previsto il ricorso appunto all'autocertificazione per la richiesta dei prestiti garantiti mi sembra un passo in avanti. Poi c'era il tema appunto della responsabilità aziendale, facevi riferimento tu poc'anzi, in caso appunto di contagio di un lavoratore da Covid, le norme introdotte nella prima stesura del decreto erano molto più pesanti, ora insomma il meccanismo è più esplicito, viene esclusa a priori questa responsabilità laddove l'impresa applichi il protocollo di sicurezza che è condiviso dalle parti sociali. Quindi mi sembra che l'attività svolta dalle commissioni vada nella direzione giusta, cioè quella di accelerare le procedure, che era poi il punto fondamentale. Che poi ci possano essere ulteriori imbuti, questo non lo si può escludere, in un paese che, come dire, da 40 anni va alla ricerca di semplificazioni e non riesce a realizzarle, ma comunque il Parlamento, devo dire, che ha fatto un buon lavoro. Sì, abbiamo aumentato, diciamo, la durata fino a 30 anni in alcuni casi e la soglia fino a 30.000 e poi soprattutto la parte, io dico, voglio capire a questo punto quale possa essere l'obiezione delle banche o la resistenza delle banche a erogare il prestito. Io ritengo che vi possa essere anche un elemento sanzionatorio se una banca senza motivazioni non eroga il prestito, però il motivo per cui il tempo è fondamentale me lo scrive in questo istante un ascoltatore e mi dice: guardate, io ho un negozio di pasta fresca, servo ristoranti e fra un mesetto chiudo per sempre. Cioè, o tu riesci a far respirare, a tenere in vita non chi era cotto prima, decotto prima, ma chi in questo momento ha, io posso immaginare che magari i ristoranti, alcuni possono tornare, non subito, è chiaro che tutti noi siamo molto cauti adesso, ma magari fra un mese ad avere un giro d'affari che consenta a questo ascoltatore di sopravvivere, ma nel frattempo gli devi dare la liquidità, gli devi dare la cassa integrazione se ne ha diritto e via così, e dare anche il fondo perduto, immagino, visto quello che mi scrive, che ne abbia diritto. Poi cammineranno alcuni settori con le loro gambe, altri dovrai continuare, diciamo, a dare degli vantaggi, penso a quelli di carattere fiscale. Comunque, grazie anche a Dino Pesole, il voto è abbastanza scontato e poi, come tu ricordavi, al Senato il passaggio sarà senza modifiche. Noi ci risentiamo intanto domani dalle 17 in poi.